La depressione mondiale può far comodo. Articolo pubblicato il 24 agosto. Sono in grado di assicurarsi che la stampa mondiale veicoli i loro interessi e che leggi e tribunali siano sempre più dalla loro parte. I grandi fondi di investimento che controllano multinazionali, grandi banche d'affari, e agenzie di rating sono solo uno degli strumenti di dominio e controllo, agenti su scala globale in mano alle oligarchie che usurpano il potere di autodeterminazione dei popoli organizzati. Il tessuto connettivo di tale sistema di dominio su scala globale è il sistema della moneta a debito privata, insieme all'imposizione post-bellica del dollaro quale unica valuta internazionale, seppure in corso di ridimensionamento drastico, a partire dai mercati asiatici. E se qualche migliaio di persone è in grado di imporre il proprio dominio al resto dell'umanità, è perché questa oligarchia si è insinuata all'interno delle maggiori istituzioni pubbliche e private e le controlla a proprio esclusivo vantaggio. Instabilità e crolli bancari finanziari. Enormi debiti e relativi crediti che non si incontrano generano tensioni sempre meno sostenibili che le iniezioni di liquidità, si direbbe capitali fittizi, da parte delle banche centrali, cercano di allentare, ma con l'effetto collaterale di alimentare l'instabilità finanziaria e bancaria in tutto il sistema economico. L'immissione di questa droga finanziaria dà un'illusione di salute che promette ulteriori profitti agli investitori. L'euforia viene rinnovata. La crisi sanitaria globale, seguita alla diffusione del coronavirus, sta permettendo di puntellare e stampellare l'economia del debito, fondata sul monopolio della moneta privata a debito, cui sfuggono ancora Cina e Russia. Le strategie di prolungamento dei loro osceni privilegi a fronte della palese instabilità del sistema finanziario mostrano crepe difficilmente sanabili. L'economia del debito appariva prossima all'implosione già prima dell'era Covid. Dopo una prima flessione, i mercati finanziari hanno assorbito però la crisi Covid e anzi ora sembrano usarla per poter continuare a usare droga finanziaria in quantità mai viste prima. Le consuete, quanto cicliche, crisi di sovrapproduzione distruggono ricchezza finanziaria e reale e tuttavia riescono a resettare il sistema conservando la sua struttura di dominio e concentrando la ricchezza nelle mani di ancora meno persone. Il momento di comprare è quando scorre il sangue nelle strade. Così recita una massima attribuita al barone Rothschild. Quando il sistema è vicino ad un punto critico, basta un evento, provocato o meno, di dimensioni adeguate per cominciare la corsa inarrestabile delle vendite, che si tramuta immediatamente in valanga di svendite generalizzate, di cui profitteranno i soliti noti. Il sistema di privilegi basato sulla creazione monetaria privata, gestita dal sistema delle banche private, appare esplicitamente in queste occasioni in tutta la sua voluta insostenibilità. Solo se governati I cambiamenti indotti dalla crisi in corso saranno in grado di mettere in discussione l'economia del debito e il relativo monopolio privato della creazione monetaria a debito verso trasformazioni di struttura profonda. Il distanziamento tra capitalismo produttivo e finanziario. La Federal Reserve e le altre grandi banche centrali stanno cercando disperatamente di scongiurare un collasso finanziario bancario. Alla base della crisi strutturale del modello economico dominante è oggi la redditività negativa che colpisce larghissimi settori dell'economia reale. L'attività economica è generalmente motivata dalla produzione di quel margine che permette di avere un profitto positivo anche dopo aver pagato gli interessi. Atto questo è essenziale alla sostenibilità dell'economia del debito. Questo margine positivo è però sempre più eroso e spesso impossibile da realizzare, se non in pochi settori che peraltro introducono allo scopo più automazione, espellendo di conseguenza forza lavoro, un processo che determina a sua volta un ridimensionamento della domanda interna e una catalizzazione viziosa del processo. Poiché i profitti finanziari speculativi sono spessissimo superiori a quelli derivanti dagli investimenti in attività reali, e per di più realizzabili in tempi assai brevi, essi rappresentano un'alternativa assai appetibile agli investimenti produttivi nell'economia reale. Questi ultimi vengono così dirottati verso l'economia finanziaria, che garantisce corsi borsistici mediamente crescenti, assicurando redditività più certa e immediata rispetto all'investimento finalizzato alla produzione di beni reali. I principali indici borsistici continuano a superare i propri massimi storici. La bolla continua a crescere. Lo scoppio della bolla finanziaria del 2007 è stata, direi, scavalcata grazie all'immissione di enormi masse di liquidità. Per evitare il collasso, la Federal Reserve aprì i suoi rubinetti, da cui sono sgorgati 29 mila miliardi di dollari per le banche di Wall Street e le loro controparti estere in derivati. Quando la sfiducia prende il sopravvento e comincia la corsa a liberarsi dei titoli, sono i numerosissimi piccoli investitori a perdere. La ricchezza si concentra così ulteriormente nelle mani dell'aristocrazia finanziaria, che sa come trarre profitto dai mercati finanziari anche e forse soprattutto in tali condizioni estreme. La droga finanziaria spacciata all'occorrenza dalle grandi banche centrali contribuisce a tenere artificiosamente alti i corsi azionari, determinando un'inflazione a carico degli asset finanziari. Le banche centrali acquistano enormi quantità di azioni. Tale pratica, insieme al buyback azionario operato dalle stesse imprese, il buyback ha a che fare con il fatto che le aziende riacquistano le proprie azioni piuttosto che investire i capitali raccolti sui mercati finanziari, finalizzandoli alla propria crescita. Quindi le riacquistano per tenere alto artificiosamente il costo delle azioni, il prezzo delle azioni, e provocano così rialzi fittizi che non sono giustificati dal valore dell'azienda e quindi dalle azioni che lo rappresentano. Questo Questi rialzi sono buoni soltanto a fini speculativi. Una ricchezza è fittizia, insomma, che vede PIL decrescenti a fronte di corsi borsistici miracolosamente quanto pericolosamente al rialzo, con l'effetto di ulteriore lievitazione della bolla speculativa globale. Le banche centrali, da strumento originariamente finalizzato alla crescita economica dell'economia reale, attraverso il credito ad essa, si sono trasformate piuttosto in strumento di protezione di asset finanziari che non rispecchiano più il valore dell'economia sottostante. Il capitalismo finanziario appare vivere di vita propria, del tutto dissociato, disaccoppiato dall'economia reale. Nell'attuale congiuntura è impossibile credere a reali aumenti dei profitti delle aziende quotate, eppure si comprano le loro azioni con grande ottimismo. Le grandi banche centrali ne supportano il capitale di rischio e gli asset finanziari. Tenere in crescita artificiosamente i rendimenti dei mercati azionari, li ha scorrelati da tutto ciò che accade nel mondo reale, e cioè diminuzione drastica della produzione industriale, licenziamenti, crollo dei fatturati aziendali e così via. La difficoltà crescente in cui versa l'economia reale è oltretutto visibile dalla diminuzione della domanda di petrolio, ridotta già ai 2/3 di quella dell'era pre-Covid. Lo dice anche il prezzo dell'oro, bene rifugio per eccellenza, che sale alle stelle, mentre cifre colossali vengono parcheggiate nei paradisi fiscali. Questi fenomeni risultano tuttavia scorrelati dagli andamenti in rialzo dei mercati borsistici, in cui la ricchezza, che è ricchezza fittizia, appare continuamente in ascesa, facendo lievitare a dismisura la bolla speculativa globale. In altre parole, si è ormai consumata la separazione tra capitalismo finanziario e capitalismo produttivo. Gli operatori del primo pretendono di poter continuare a fare soldi con i soldi, senza passare per la produzione di beni. L'economia reale viene piuttosto parassitata e condannata, come vedremo meglio più avanti, a recessione permanente, per poter immettere denaro di banca centrale senza suscitare processi inflattivi generalizzati. Debiti e crediti, ossia prestiti ad alto rischio, però non si incontrano più da tempo. E anche le varie strategie messe in atto per ovviare a questa situazione, ossia la cartolarizzazione, la derivazione dei titoli, che permettono di renderli commercializzabili, confezionati in quei titoli di debito che abbiamo conosciuto nella precedente crisi del 2007, come le obbligazioni di prestito collateralizzato, che gli hanno conferito valenza di moneta fittizia, che si poteva così agilmente spargere per il mondo, titoli tossici che sono stati venduti a fondi vari. Ma insomma, le strategie di gestione dei titoli tossici speculativi hanno i loro limiti. E la normalizzazione finanziaria operata dalle grandi banche centrali, che a fronte di prestiti con leva finanziaria insostenibile, è giunta a introdurre tassi negativi, non sembra più sufficiente a garantire la tenuta del sistema finanziario. che insomma, a fronte della diffusione di tassi sotto zero, è costretta a misurarsi con bassi ritorni sul capitale investito. La media Dow Jones, vedi il grafico? Dopo il calo fatto registrare a partire dai primi giorni dello scorso febbraio, causato dai timori legati alla diffusione del virus, ha ripreso la sua ascesa con l'inizio della primavera. Ma appare ormai prossimo il momento in cui la fiducia verrà a mancare. Momento che sarà scatenato da un qualche evento, magari costruito ad hoc, in grado di diffondere il panico, dando il via ad una cascata di svendite autoalimentantesi, potenzialmente in grado di condurre in breve tempo al collasso l'intero sistema finanziario. Restituire un prestito, bene rifugio, con tasso di interesse zero, equivale, in assenza di inflazione, a scommettere sulla speranza di riuscire a conservare integro il valore dei propri capitali, mentre l'economia reale fa registrare crolli a due cifre del PIL. Il virus che impedisce l'inflazione. Nell'era dei tassi sotto zero, come possono gli speculatori continuare a fregarsene di quello che succede nel mondo reale? Come possono le grandi banche centrali continuare ad immettere moneta a sostegno di un sistema finanziario divenuto apparentemente indipendente dal mondo reale? E allo stesso tempo altamente instabile, senza effetti collaterali. Come evitare il collasso dell'intero sistema finanziario e del sistema bancario adesso intimamente legato? L'unico modo è quello di alimentare la bolla finanziaria, lasciando che essa continui come un'idrovora insaziabile a sostenersi grazie all'immissione di ulteriore liquidità a uso esclusivo del mondo finanziario. Ciò è però possibile se si trova il modo di non far esplodere l'inflazione. A tal fine, la moneta immessa non deve poter circolare nel mondo reale. Essa deve rimanere confinata entro i ristretti confini del mondo finanziario. Questa strategia, seppure di corto respiro, può permettere ancora per un po' al mondo della finanza speculativa di continuare a fare i suoi affari. La dichiarazione di pandemia su scala globale sembra essere venuta in soccorso di questo stato di cose, generando un calo repentino della domanda globale impossibile da indurre altrimenti. Il virus, secondo Fracassi, l'evento più annunciato al mondo, ha imposto un'austerity globale, limitante fortemente la domanda di merci e servizi, insieme al ridimensionamento drastico del commercio globale. Tutto ciò è ideale per prolungare ancora un po' la tenuta del sistema finanziario, perché tiene a bada l'inflazione. Ma sino a quando? Ecco, la risposta a questa domanda è semplice. Naturalmente, sino a quando questo stato di cose non farà collassare anche l'offerta, in termini di fallimenti generalizzati che colpiranno le imprese private e pubbliche. In ultima analisi, quel che sembra sfuggire è il fatto lapalissiano che il sottostante di qualsiasi economia finanziaria non può che essere l'economia reale. Quando inizierà la fuga degli investitori normali e il cigno nero si leverà in volo, dispiegando le sue ali a oscurare i cieli del mondo. Se gli stati nazionali risultassero del tutto colonizzati, non saprebbero difendere i loro interessi. Ne sarebbero impossibilitati. La micro e la piccola impresa subirebbero il colpo fatale. Nel nostro paese, ad esempio, il sistema delle piccole banche popolari e di credito cooperativo sarebbero del tutto riassorbite. Terre bruciate, prede senza ormai difesa di multinazionali e grandi banche d'affari. A guadagnarne sarebbe ancora una volta l'aristocrazia finanziaria, che diventerebbe ancora più potente e ricca. Sarebbero socializzate le immense perdite e privatizzati gli enormi guadagni. Il virus appare, in altre parole, come il nuovo gold standard globale, che impone povertà e deflazione a vantaggio del prolungamento dell'agonia del sistema della finanza speculativa. Sistema bancario e sistema finanziario hanno destini ormai interdipendenti. È stata infatti permessa e alimentata la crescita degli intermediari bancari finanziari ombra, col compito di mettere in circolazione quei prodotti finanziari veicolanti investimenti speculativi. È così che il sistema bancario regolamentato gioca la sua partita ormai da troppo tempo. Negli anni 90 si ricordi l'abolizione del Glass-Steagall Act. E questa partita viene giocata in quegli stessi canali e mercati propri del sistema della finanza speculativa deregolamentata. A proposito delle condizioni di rischio in cui versa il sistema bancario italiano e quindi i nostri risparmi, si legga il recente documento targato Consob, intitolato La crisi Covid-19, impatti e rischi per il sistema finanziario italiano in una prospettiva comparata. Citiamo. Le conseguenze economiche e finanziarie discendenti dal contenimento della pandemia sono parse sin da subito molto severe. Le previsioni sui tassi di crescita del PIL globale e dei singoli paesi per l'anno in corso sono state riviste al ribasso a più riprese. Nel primo trimestre dell'anno, gli indicatori relativi all'andamento dei mercati finanziari hanno evidenziato tensioni di proporzioni pari o superiori a quelle sperimentate durante la crisi del 2008. Si paventano un forte deterioramento dei conti pubblici, un aumento del tasso di insolvenza delle imprese, un peggioramento significativo delle condizioni economico-finanziarie delle famiglie. Si intravedono possibili ripercussioni sulla qualità degli attivi delle banche e sulla relativa capacità di erogare credito in una fase in cui i mercati primari dei capitali mostrano segnali di un rallentamento dell'attività. Fine citazione. Sul versante globale, il Fondo Monetario Internazionale sibillinamente avverte, citiamo, questa crisi rappresenta una seria minaccia per la stabilità del sistema finanziario globale. In seguito allo scoppio del Covid-19, le condizioni finanziarie si sono irrigidite a una velocità senza precedenti, esponendo alcune crepe nei mercati finanziari globali. Fine citazione. Vediamo ora lo stato delle cose nel nostro paese. Che futuro ci aspetta? Dopo aver imposto il finanziamento dello Stato sui mercati finanziari, costringendolo a chiedere soldi in prestito a soggetti non residenti, dopo aver sistematicamente demolito lo Stato sociale e demonizzato gli investimenti pubblici, nel tentativo di far fronte al debito, la crisi economica sarà assai difficile da fronteggiare. Solo quei paesi che non si sono affidati ad organismi sovranazionali e a risorse esterne a debito, solo quei paesi che non hanno rinunciato alla propria banca centrale e alla loro moneta nazionale hanno strumenti adeguati per affrontare al meglio i disordini crescenti e anzi il caos economico ormai dilagante nel mondo finanziario e economico. Le stime preliminari vedono, secondo Istat, un crollo di 100 miliardi di PIL nel semestre di quest'anno. Siamo in pratica tornati al PIL del 93. La risposta criminale del governo in carica è riposta nell'aumento del livello di indebitamento del paese, con l'aggravante della richiesta di prestiti con condizionalità. E questo, attenzione, nell'epoca dei tassi negativi. Questi prestiti naturalmente non potranno che facilitare la corsa verso il fallimento del paese e il suo commissariamento, visto che si tratta per l'appunto di prestiti con condizionalità assai gravi. Di questo passo il rapporto debito-PIL, se il PIL diminuisce e il debito aumenta, è evidente che il rapporto esplode. Beh, il rapporto debito-PIL supererà in poco il 200%. Ricordiamo che il fiscal compact che abbiamo colpevolmente infilato in Costituzione lo voleva riportare al 60% in 20 anni. Tra l'altro, secondo tali propositi, avremmo dovuto in 20 anni tagliare 50 miliardi all'anno per 20 anni dallo Stato sociale, cosa evidentemente impossibile da realizzare. Intanto da febbraio abbiamo già 600.000 disoccupati in più e registriamo il crollo di quasi la metà della produzione industriale. L'aumento degli inattivi che hanno rinunciato a cercare lavoro è di 700.000 unità. Poi ci sono i cassa integrati a 0 ore, in pratica 8 milioni di lavoratori. In queste condizioni questi dati non potranno che peggiorare. Se poi venisse riavviata la macchina dello spread, i nostri titoli, declassati dalle agenzie di rating a titoli spazzatura, andrebbero fuori mercato. Malgrado esso siano sempre stati richiesti in misura maggiore dell'offerta, non sarebbero più comprati e anzi chi ne fosse in possesso sarebbe costretto, seguendo gli attuali criteri del rischio accettabile, a disfarsene in breve tempo. Il downgrade dei titoli italiani è la spada di Damocle che minaccia costantemente il paese. Essa è tenuta sospesa sulle nostre teste dal filo sotteso dalle agenzie di rating. Come evolverà questa situazione anche dal punto di vista della coesione sociale? Ci saranno disordini sociali? L'obbligo di mascherina e la proibizione degli assembramenti saranno sufficienti a contenere le rivendicazioni sociali? Di sicuro, già in era pre-Covid, era stato predisposto e applicato il decreto sicurezza, che aveva reso già difficilmente praticabili persino quegli assembramenti finalizzati a manifestazioni di protesta per giuste rivendicazioni. La protesta è oggi facilmente sanzionabile come reato. Le aberranti norme del decreto sicurezza hanno difatti già colpito, ad esempio, i lavoratori della tintoria Superlativa di Prato, i cui operai senza stipendio da 7 mesi, in condizioni lavorative inaccettabili, si sono visti affibbiare 21 multe dai 1.000 ai 4.000 euro ciascuna, per un totale di 84.000 euro, colpevoli del reato di blocco. Il piano di salvezza nazionale. Esistono tuttavia strumenti finanziari e risorse interne che ci permetterebbero, rinunciando ai prestiti esteri e all'uso di moneta a debito privato, di risollevare le sorti del paese. Che è conosciuto, piano di salvezza nazionale, stiamo parlando del piano di salvezza nazionale, che è conosciuto dal governo, ma colpevolmente ignorato. Solo il piano di salvezza nazionale, pur all'interno dei vincoli europei, sarebbe in grado da subito di liberarci dalla presunta necessità di dipendenza dai mercati finanziari esteri, valorizzando e al contempo proteggendo le immense risorse endogene di cui disponiamo per la ripresa strutturale della nostra economia pubblica e privata. Prima capiamo che è bene tornare a finanziare il nostro paese ricorrendo a risorse endogene, come proposto nel piano, mettendo al primo posto la risposta ai bisogni interni, e meglio è. È necessario invertire la rotta velocissimamente se si vuole evitare la collisione ormai prossima con l'iceberg. La ribellione contro le élite deve essere agita a più livelli contemporaneamente. Il loro è un potere trasversale che pretende agire su scala globale. C'è una guerra in atto che mira al superamento della civiltà interumana, che pretenderebbe governare la complessità impedendoci e persino sottraendoci capacità di scelta ponderata, autonoma, individuale e di gruppo. È già successo all'epoca dell'Inquisizione. Eretico è etimologicamente colui che sceglie. Le élite imperanti oggi usano le tecnologie emergenti al fine di assicurare continuità al loro dominio, al contempo rafforzandolo. Il loro sogno è quello di ridimensionarci demograficamente, ridurci a meri esecutori privi di capacità critica, coscienza civile, eccetera. Al fine di mettere in ordine il mondo al loro piacimento e vantaggio. Dobbiamo impedire che siano ancora loro a gestire la finanza degli stati, creando le condizioni per un ritrovato esercizio della sovranità, a cominciare da quella monetaria, sino a quella politica ed alimentare. A livello internazionale è necessaria una nuova Bretton Woods che riformi il sistema dei pagamenti internazionali e abbandoni finalmente il paradigma vigente fondato sulla liquidità che prevede un mercato del tutto abusivo, quello del denaro, che istituisca e faccia osservare nuove leggi che regolamentino finalmente la finanza mondiale, chiudano i paradisi fiscali, portino alla luce e impediscano l'attività bancaria ombra, e istituiscono finalmente un tribunale internazionale contro i crimini finanziari. Citando Karl Marx, dal capitale. Il sistema creditizio, che ha come centro le pretese banche nazionali e i potenti prestatori di denaro, e gli usurai che pullulano attorno ad essi, rappresenta un accentramento enorme e assicura a questa classe di parassiti una forza favolosa, tale non solo da decimare periodicamente i capitalisti industriali, ma anche da intervenire nel modo più pericoloso nella produzione effettiva. E questa banda non sa nulla della produzione e non ha nulla a che fare con essa. Banditi ai quali si uniscono i finanzieri e gli speculatori.